Europa 24. Buongiorno e un saluto da Gigi Donelli. Partiamo dall'Ilva di Taranto, che resta sotto la lente di Bruxelles, mentre la Commissione europea sta finendo di valutare i documenti ricevuti a metà giugno da Roma. L'8 luglio ha inviato all'Italia nuove richieste, col termine di 3 settimane per rispondere. Cattive notizie per il fondo di salvataggio temporaneo dell'Unione europea, creato agli inizi della crisi finanziaria per salvare la Grecia. Sentiamo. Duro colpo per il fondo di salvataggio IFSF dopo che Fitch ha tagliato a AA+ da AAA il suo rating. L'IFSF è un fondo temporaneo destinato ormai a venire progressivamente sostituito dallo ESM, che avrà invece carattere permanente. La decisione segue in larga parte il peggioramento del giudizio e la bocciatura del rating francese. Fitch è l'ultima delle tre grandi agenzie a declassare il fondo, mossa già compiuta nel recente passato da Moody's e Standard & Poor's. Fitch ha pure minacciato possibili nuovi tagli del rating nel caso in cui uno degli stati garanti dello IFSF, vale a dire Germania, Olanda, Austria, Finlandia, Lussemburgo e Francia, dovessero subire un downgrade sotto il livello di AA+. Nei fatti, la decisione degli analisti dell'agenzia renderà più oneroso l'approvvigionamento delle risorse che l'IFSF utilizza per sborsare le tranche di aiuti, riducendone così la disponibilità monetaria. La conseguenza sarà che, di fronte alla potenza di fuoco limitata dei due fondi comunitari, temporaneo e permanente, sarà sempre più la Banca Centrale Europea ad assicurare la solvibilità dei paesi sotto maggiore stress, prevenendo gli attacchi dei mercati. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. A partire dal 18 luglio, dunque 2 giorni da oggi, l'Unione Europea condizionerà ogni nuovo accordo con Israele ad una clausola secondo cui non sarà applicabile in Cisgiordania, Gerusalemme Est e sulle alture del Golan. Anticipata con grande evidenza da Haaretz, la notizia è stata confermata nella sostanza dal viceministro degli esteri Zev Elkin. Gli europei, ha detto alla radio, commettono un errore perché con questa politica irrigidiranno le posizioni palestinesi. La Commissione europea ha l'obbligo di combattere la discriminazione basata sull'orientamento sessuale, ma non deve schierarsi in tema di matrimonio e di coppie omosessuali, in materia invece di competenza nazionale. Lo rileva il difensore civico europeo Niforos Diamandouros, rigettando un ricorso presentato per protestare contro l'iniziativa dell'esecutivo UE, che nel maggio 2011 ospitò nella sua sede una mostra fotografica sulle coppie gay intitolata Famiglie diverse, stesso amore, ed organizzata dalla ILGA Europe. Sono Federico Taddia e oggi vi segnalo una interessante opportunità promossa dal Comitato delle Regioni dell'Unione Europea, l'ente che si occupa di dare voce alle istituzioni locali e regionali d'Europa. Il Comitato offre infatti ogni anno la possibilità di stage retribuiti di 5 mesi per laureati, affinché possano vivere un'esperienza formativa in uno dei centri che maggiormente lavora con i vari organi dell'Unione Europea e acquisire così abilità pratiche di amministrazione all'interno di una dimensione professionale multiculturale. Per candidarsi occorre essere in possesso di una laurea specialistica, essere cittadino di uno Stato membro dell'Unione e conoscere a livello soddisfacente inglese o francese. Le scadenze variano a seconda della sessione, la prossima è il 30 settembre. Per informazioni, cor.europa.eu. Grazie Federico Taddia, Filippo Aureggi in regia. Da parte mia sono Gigi Donelli, un saluto, l'appuntamento naturalmente con Europa 24 domani alle 13.15. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.